E le usano per comunicare nella foresta, le usano per, assolutamente, vuol parlare in lontananza. E soprattutto perché devono utilizzare dei suoni che attraversino il fogliame e che raggiungano a chilometri di distanza i conspecifici. Abbiamo detto tutto, dai. Grazie a voi. Elementare @radio24.it. Questa è la nostra mail, mandateci le domande perché risponderemo a tutte. Per esempio, se durante il primo tempo di una partita di calcio un terremoto apre una fenditura lungo la linea di centrocampo, nel secondo tempo è meglio adottare il 4-3-3 o il 4-4-2? Elementare, Watson.